Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Beh, questa la possiamo raccontare subito. Intervista, cognome Totti, nome Francesco, nato, sì. Benvenuto Antonio Caprarica. Bentrovati, mi pare un ottimo esordio. Autore di Papaveri e Papere, breve storia universale delle gaffe dei potenti. Attenzione, è un libro che appunto fa la storia delle gaffe, una storia molto lunga, vero direttore? Eh sì, è una storia molto lunga, molto vasta, molto rivelatrice. Poi considero questo libro una specie di estensione ideale ma molto divertita dei miei precedenti studi sui caratteri nazionali degli europei, perché è vero che la gaffe è internazionale, interclassista, però in verità ha una varietà estremamente larga, e soprattutto la gaffe è rivelatrice degli stereotipi, dei pregiudizi che costituiscono la struttura e lo scheletro di una cultura. Per cui è vero che l'internazionalità è qualcosa che attiene alla gaffe in quanto elemento di intelligenza perduta comune all'umanità intera, però è anche vero che ogni singola gaffe può accadere solo in quel contesto culturale, nel momento in cui ad esempio alcuni nostri uomini politici fanno delle battute sul terreno sessuale o razziale, e spesso queste battute si trasformano in gaffe, ecco, non potrebbero farle in un contesto culturale diverso senza il rischio gravissimo di essere inseguiti da una salva di pomodori. Sì, il problema vero è che poi in realtà, diciamo così, a parte le cose pittoresche che ci raccontavamo sui nostri uomini politici, che so, il democristiano che voleva esercitarsi in francese, qui bus j'ai. Sì, o regard qui parle. Sì, regard qui parle, o cose di questo genere. In realtà nel tuo libro c'è qualcosa di più, perché è come una specie di filo rosso che collega un modo di essere, per cui il potere ad un certo punto è come se scricchiolasse, eh sì, per mancanza di motivazione. I primi segni, che sono magari più divertenti, sono i segni che ci vengono appunto da gaffe madornali. Sì, le gaffe hanno questo aspetto, è per questo che ho investigato quelle del potere. Sono una frattura, in qualche modo, della corazza della personalità. Nel libro, che, ripeto, ha voluto e vuole essere soprattutto un divertissement, c'è però una parte in cui ci misuriamo, o mi misuro, con come dire, la teoria delle gaffe. Ci sono scritti celeberrimi di Freud sulle gaffe. Che cosa è davvero la gaffe? È il momento in cui il falso sé si incrina. Ora, le persone che hanno potere, le persone che sono sempre sul palcoscenico, impegnate nella rappresentazione quotidiana del loro potere, sono davvero un monumento al falso sé. La gaffe è il momento di rottura di questa corazza, e io le ho rintracciate uno dopo l'altra perché onestamente mi è sembrato giusto offrire alla gente comune, alla gente ordinaria che è abituata a seguire i potenti dagli schermi televisivi o oppure dalle esibizioni magari anche radiofoniche, offro dai libri, offro alla gente comune la possibilità di rifarsi e di ridere non alle spalle dei potenti, ma direttamente in faccia ai potenti. E non solo i potenti della politica, non identifico il potere solamente con l'aspetto tradizionale, che è quello della politica, del governo, quindi principi, sovrani, presidenti, ma anche i potenti dell'immaginario, gli sportivi, i televisivi, alcuni nostri colleghi dell'informazione sono straordinari, commettono anche loro delle gaffe eccezionali, qualcuno ci ha costruito perfino una carriera, ma anche persone simpaticissime come Simona Ventura, per dirne una. Lei ammette che la gaffe è stata decisiva per costruire la sua carriera quando era molto più giovane di oggi, presentando un pugile famoso dell'epoca, Sandro Mazzinghi. Invece di chiamarlo Mazzinghi lo chiamò Mazinga, come il famoso fumetto. Il risultato fu che la Jalapas Band la invitò e così cominciò la sua carriera televisiva. E qui il discorso diventa serio, perché nel tuo libro ricordi anche Fenomenologia di Mike Bongiorno a firma di Umberto Eco. Fu l'anno in cui Umberto Eco pubblicò due libri indimenticabili, questo e poi Come fare la tesi di laurea senza farsela copiare dal professore. Diciamo due elementi fondamentali. Qui ora tutti quanti siamo ancora pieni del ricordo, ai ai, signora Longari, lei ci cade sull'uccello. Quello è un falso. Oppure Paolo V, Paolo V invece è a posto vera. Di Paolo, Paolo V è vero. E anche ecco, Paolo V, la famosa gaffe di Buongiorno sulla domanda sul Papa, perché dice: ma che cosa sa lei di Papa Paolo V? Ma questo è solamente un signore cresciuto in un contesto americano, diciamo, quindi con una scarsa confidenza con gli ordinali latini, poteva accaderci così facilmente, dire Paolo V invece di Paolo VI. Quando gli hanno spiegato che era un ordinale, la volta successiva alla domanda su Malcolm X, lui l'ha formulata come Malcolm 10. Quindi... No, però qui il dubbio, diciamo, resta dal libro di Umberto Eco in poi ancora irrisolto, perché non è un'applicazione di quella aurea regola della, diciamo, di fenomenologia dei mass media, per cui che si parli male, si parli bene di me, purché si parli di me. Perché poi in realtà questo aprirebbe anche la pagina delle gaffe più recenti, dal cucù alle corna o diciamo all'abbronzatura. Beh, perché la politica si è ha adottato un atteggiamento di mimesi rispetto allo spettacolo. Cioè la politica del, diciamo, senz'altro gli ultimi tre lustri, ma per la verità anche da prima, lontano dal nostro paese, insomma l'influenza crescente della televisione e dello spettacolo sull'immaginario collettivo e dunque anche sugli orientamenti ideali e di voto delle grandi democrazie del mondo ha prodotto questo cortocircuito tra appunto lo spettacolo, che significa apparire, perché questo è lo spettacolo, e la politica, e la politica ha assunto lo stesso andamento, le stesse caratteristiche dello spettacolo. Una grossa soddisfazione comunque scoprire, ripercorrendo la storia delle gaffe, che la formalissima monarchia inglese, che è sempre stata, continua ancora ad essere, diciamo così, un po' sinonimo di formalismo ben condotto, aveva in epoche anche abbastanza recente nei rampolli un modo di trattare le dame di corte in un modo che definire pecoreccio forse è offensivo. abbastanza ruvido, diciamo, però questo ha a che fare molto. Che cos'è la gaffe? Io nel libro, che è pieno soprattutto di esempi e di storie e di episodi che riguardano le gaffe, a un certo punto però mi soffermo anche sull'origine. La gaffe è qualcosa che nasce nella cultura borghese a metà dell'Ottocento, è un'infrazione dell'etichetta. Noi ci rendiamo conto della gaffe, ne siamo imbarazzati o ne ridiamo, perché quella è proprio una rottura dell'etichetta sociale. Questa è la gaffe. Questo problema è un problema che è tipico della borghesia che si afferma in Europa due secoli fa. Non è un problema che hanno le masse contadine, non è un problema che hanno gli aristocratici. Nelle une e negli altri si pongono il problema dei rapporti sociali ben temperati. Ecco perché la casa reale britannica è sempre stata piena, non se la prendono le loro altezze reali, se in questo momento dico di cafoni, perché prendete Filippo, che entrando a Cardiff nella sede di un'associazione di bambini sordomuti che era andato a visitare, viene accolto da una banda locale, naturalmente un po' fracassona come sono un po' tutte le bande locali. Il principe tace, soffre, alla fine non ne può più, si rivolge alla delegazione di bimbi schierati, sordi, lì in prima fila, li guarda e gli dice: beh, certo, se siete qui da molto non mi stupisco che siate diventati sordi. Ecco, questo avrebbe guadagnato evidentemente a qualsiasi uomo politico un'immediata salva di fischi. Nel caso di salve di fischi, è chiaro che nel caso di Filippo invece il suo statuto reale lo tiene al riparo dalla idea che questo sia qualcosa che non si fa. Sì, ma questo, diciamo, pone l'occasione di porre, diciamo, la domanda fondamentale: ma Filippo di Edimburgo è veramente quello che appare? Filippo è veramente quello che appare, e anche in questo caso Filippo e le gaffe di Filippo sono profondamente rivelatrici del carattere nazionale. Filippo è uno straniero che arriva in Gran Bretagna, povero in canna. Si narra che il giorno in cui ha sposato la principessa che sarebbe diventata regina, in tasca avesse solamente 6 sterline. Era figlio di un principe cadetto della corona di Grecia, ma aveva dovuto lasciare il paese ed era veramente povero in canna. Questo straniero straniero, povero in canna, arriva in un paese di cui assorbe o cerca di assorbire, allo scopo di integrarsi meglio, come dire, gli umori più profondi, se volete più di pancia, essere sinceri, xenofobia. Il vecchio inglese, il vecchio John Bull, era un isolano xenofobo, maschilista, sessista, scarsamente disponibile a sorvolare sulle debolezze degli altri, fisiche o intellettuali. Ed ecco allora che tutte le gaffe di Filippo, che sono veramente divertentissime, ma insomma un principe consorte che dice: beh, non c'è una gran differenza tra una prostituta e una moglie, più o meno lo stesso mestiere. Un principe consorte che va in Kenya e una signora di una tribù locale che gli presenta un dono la guarda e le dice: ma lei è una donna, vero? Non è sicurissimo di questa cosa. Oppure incontra un gruppo di inglesi a Pechino, di giovani studenti che sono lì, gli dice: quanto tempo siete qui? 3 mesi? Beh, se rimanete più a lungo vi verranno gli occhi a mandorla, e via raccontando, perché per lui la razza è ancora, come era per gli inglesi imperiali d'inizio secolo, qualcosa che divide un vero inglese da chi non ha la fortuna di essere inglese. Sì, vi anticipiamo, perché ne parleremo anche, che nella storia della gaffe naturalmente cadono anche i papi del papissimo Wojtyła. Stiamo attenti qui. Papissimo vuol dire che era, diciamo sì, non molto interessato a conoscere la storia dell'Italia, diciamo così, di errori di date come e di papi ce ne sono così a bizzeffe, insomma. E c'è anche qualcosa che riguarda pure diciamo, sì, i suoi rapporti con l'ebraismo, perché sì, dopo la frase siete i nostri fratelli maggiori, 11 anni dopo è Ginsburg che, diciamo così, scopre che questa comunque è una frase che viene tratta da un testo su cui si è fondato a lungo l'antiebraismo cattolico. Esatto, la famosa lettera di Paolo ai Romani, insomma, quindi effettivamente un testo che forse, ma probabilmente, che cosa ha funzionato? Beh, cioè, la verità è che, come viene osservato poi spesso e volentieri, insomma, la storia degli uomini è fatta di cose diverse che si dicono con le stesse parole e di cose uguali che si dicono con parole diverse. Quindi alla fine ci si ritrova a dire cose diverse con parole uguali. È chiaro che il Papa non intendeva, mentre Paolo dice siate, appunto, sono i fratelli maggiori, ma si riferiva però alla storia biblica di Esaù, e quindi il fratello maggiore che rinuncia alla primogenitura per il famoso piatto di legumi, e nel caso invece di Wojtyła è chiaramente quel fratello maggiore, era un atto di omaggio, questo era nella sua, però probabilmente nel dire fratello maggiore probabilmente gli sarà tornato, sicuramente, anzi direi gli sarà tornato alla memoria l'espressione paolina e all'altro adoperata con un senso per fortuna molto diverso. Con Antonio Caprarica, autore di Papaveri e Papere, breve storia universale delle gaffe dei potenti, stiamo facendo alta filosofia, come vedete, su cose che sembrano apparentemente passeggere. Siamo insieme a Riccardo Silvi, nostro redattore, Valerio Rocchetti. Cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Antonio Caprarica, la nostra guida questa settimana. Il direttore Caprarica ha mandato in libreria Papaveri e Papere, breve storia universale delle gaffe dei potenti. Abbiamo discusso poco fa di questa analisi sociale attraverso queste crepe che si aprono all'interno del senso comune. Però di Antonio Caprarica vorrei ricordare 3 libri che sono nel genere così delle analisi, degli aggiornamenti di tipo antropologico, proprio su dei luoghi comuni intorno ai quali spesso e volentieri costruiamo o pensiamo di costruire interi discorsi. E partiamo dal più, diciamo sì, dal primo: Dio ci salvi dagli inglesi o no? Cioè una aggiornata analisi di tutta una serie di discorsi che vengono fatti sui riti o i miti, perché ripensavo a una barzelletta che mi raccontavano di un nobile napoletano, credo che fosse Pupetto Maresca, che andava a Londra e ogni mattina mandava il domestico a vedere come erano vestiti, come bisognava vestirsi, e il terzo quarto giorno gli risale in stanza il maggiordomo e dice: "Ah, principe, qui di inglesi ci siamo vestiti solamente noi due." Questa viene attribuita a svariati aristocratici italiani in visita, ma questo è vero. Io ci ho giocato, come gli ascoltatori forse ricorderanno, insomma, in Inghilterra ci ho vissuto per 10 anni da corrispondente della RAI, e la cifra della mia corrispondenza era un po' questo gioco che facevo con gli spettatori, cioè giocavo con gli spettatori a fare l'inglese, a fare il giornalista italiano che fa l'inglese come noi italiani ci siamo sempre immaginati l'inglese. Sono naturalmente cambiati moltissimo, come siamo cambiati noi. Poi tutti aspettavamo la graffiata finale, quella dell'ultima frase. Quella sì, era questo mi fa piacere, dire che era un appuntamento che la gente evidentemente apprezzava. E la verità è che gli inglesi sono cambiati tanto quanto siamo cambiati noi. E quel libro sugli inglesi è stato il primo di quella che io definisco la mia Europa o l'Europa dell'o no. Ne ho scritti 3 di libri che finiscono con o no, il primo che tu citavi è dedicato agli inglesi, il secondo ai francesi, il terzo a noi. Gli inglesi in cui mi sono imbattuto io erano gli inglesi della Cool Britannia, di questo paese rilanciato dal blairismo, di questo paese che riscopriva le virtù miracolose del liberismo più spinto, che celebrava il Big Bang della borsa londinese, la deregulation della borsa londinese nell'86 come un evento fausto quasi quanto il Natale, e comunque dal punto di vista economico certamente più produttivo, e quindi un paese certamente affascinante, appassionante, ma non era più il paese del stiff upper lip, del labbro superiore rigido. Al contrario, era un paese molto meridionalizzato, molto mediterraneizzato, un paese di gente che piange, come abbiamo visto al funerale di Lady Diana, un paese di gente che non è più. È molto divertente perché nel 1951 una rivista inglese, People, raccolse 11.000 risposte in un amplissimo sondaggio per tratteggiare il ritratto degli inglesi, come si vedevano gli inglesi. E ne viene fuori un autoritratto in cui l'inglese si definisce amante della libertà, insofferente delle invasioni della privacy, attaccato alle tradizioni e alle istituzioni, e rispetto ai popoli confinanti scarsamente interessato al sesso. Quest'ultima notazione deve avere giustificato la nostra famosa commedia "Niente sesso, siamo inglesi", ma io che ho vissuto lì negli anni a cavallo tra il 95 e il 2005 ho visto invece un paese che dal punto di vista sessuale era assolutamente scatenato. Quindi anche da questo punto di vista, come era scatenato dal punto di vista del crollo della deferenza, la fine in Inghilterra dell'età della deferenza è stata segnata dal trionfo del gossip, dei giornali, dei tabloid, per cui non c'era più autorità né morale né politica né istituzionale che potesse salvarsi dal pettegolezzo. Ma anche la fine delle istituzioni, perché nel libro Papaveri e Pavere, al capitolo "Le tonache degli altri, vicari, rabbini, pastori, qualche turbante", leggiamo: nel 90, in una lettera al quotidiano The Independent, si formulava la seguente proposta: "Gentili signori, siccome la Chiesa in Inghilterra è diventata in questi ultimi tempi una realtà puramente decorativa, che ne dite di eleggere come prossimo arcivescovo i Canterbury, il più bello fra tutti i candidati?" Sì. Oh, il vescovo anglicano Durham, David Jenkins, che si rallegra per l'uscita di un libro in cui si dichiara che Gesù è figlio del rapporto carnale tra Giuseppe e Maria, nonché il primo di 8 fratelli. Sì. Oh, c'è anche la nascita del clero ateo anglicano. Il parroco anglicano Anthony Freeman, che una volta si perdeva la fede, chi perdeva la fede usciva dalla chiesa, invece noi vogliamo restarci. "Non ci restiamo per una nuova tonificante cristianità senza fede", anche perché confessa a un giornalista: "La moglie Jacqueline è preoccupata per la casa data in concessione come beneficio ecclesiastico, ma Freeman insiste: Penso di essere un buon cristiano. Il Vangelo non dice di credere, ma di amare i vicini. A che il giornalista gli chiede: ma allora non è più semplice iscriversi al New Labour in versione Brown? Invece devo dire che da noi, che siamo, grazie al cielo, meno eccentrici dei nostri vicini inglesi, siamo più legati a una visione tradizionale della fede, e dunque il giornale diocesano di Casale Monferrato, nel celebrare il 50° di sacerdozio del vescovo locale, titolò precisamente così: per 50 anni sequestrato da Dio. Sì, io conservo ancora un ritaglio dell'Osservatore Romano dove la catechesi di Papa Giovanni Paolo II veniva riassunta in su nove colonne: is virgola 8,9-13.27-32, e quello era il titolo che riassumeva la catechesi del mercoledì. Parigi, come si dice, è dolce oppure no? Secondo libro di Antonio Capranica. Ah, questo sì. Parigi è naturalmente dolcissima per tutti noi che la frequentiamo da turisti. E come mi capita spesso di dire, a Parigi ci si va quando si è fidanzati, oppure in viaggio di nozze, oppure con l'amante. E nella maggior parte dei casi questi magnifici fine settimana o la settimana intera sono veramente dolcissimi. Però Parigi è un paese, Parigi, la Francia, diciamo, la Francia è un paese fortemente centralizzato, burocratizzato. Io ci sono arrivato e credo che un po' la mia reazione negativa nei confronti dei parigini più che dei francesi sia proprio abbia questa radice: venendo da un paese poco burocratizzato come l'Inghilterra, arrivare a Parigi è come trovarsi improvvisamente in prigione, cioè le formalità, i riti veramente dei francesi, anche un po' l'arroganza, la prosopopea. Ricordo l'incontro con un giovane francese al quale chiesi: che cosa fa lei, che mestiere fa lei? E lui mi rispose: io sono un funzionario dello Stato. Ah, per Diana, ma di che cosa si occupa particolarmente? Ah, dice, io faccio il postino. Ecco, per i francesi lo Stato è tutto, e non a caso un grande francese diceva che appunto la Francia è quel paese in cui una volta il sovrano pensava di essere lo Stato e adesso lo Stato pensa di essere il sovrano. E abbiamo ancora due minuti, gli italiani la sanno lunga o no? Perché continua così forte il pregiudizio? Beh, diciamo, noi lo aiutiamo in qualche misura, ma lo aiutiamo anche con il nostro antico difetto dell'autodenigrazione. Siamo molto portati ad autodenigrarci, ma non perché siamo eccessivamente autocritici, solo perché siamo molto autoindulgenti. E allora più ci autodenigriamo e meno siamo costretti a fare per cambiarci e migliorarci. E siamo tutti giolittiani inconsapevoli. Giolitti, grande uomo politico, diceva agli inizi del Novecento a un gobbo, che sarebbero gli italiani: non posso che fare un abito da gobbo. Così gli italiani continuano a raffigurarsi come gobbi, in modo da non doversi applicare in palestra e raddrizzare il loro carattere, la loro moralità. Io penso che invece possiamo lavorarci sopra. E da ultimo, and the winner is, si conclude Papaveri e Papere, Silvio Berlusconi, citando i Financial Times. Difendiamo la patria oppure ci arrendiamo all'evidenza? Ma io devo dire che direi che l'evidenza non si può evidentemente discutere né smentire, lo sanno tutti. Però non solo lui fa le gaffe, ma le fa come le fanno in genere gli italiani, come le facciamo noi italiani. Noi le facciamo e ci rifiutiamo di riconoscerle. Anche in questo il nostro Silvio è veramente un ritratto della nazione. E consegniamo una massima ai nostri ascoltatori, direttore. Prego. Una massima. Quale massima possiamo consegnare? Probabilmente quella che una gaffe rivela di noi molto più di ciò che vorremmo che si sapesse. Riflettete, gente, riflettete. Questo è il tema della settimana. Grazie a Riccardo Silvi, grazie a Valerio Rocchetti, grazie direttore. Grazie a voi. E a risentirci.